Benvenuti a una nuova puntata di Radio Banda Armata qui su Fuori Onda Radio, che è in streaming su piuoccupata.noblogs.org e anche in differita su Radio C Roma alle frequenze 105.7. Vai con la sigla maestra. Razzinga. Dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici Razzinga, Razzinga, tuona, si scaglia dal sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita, la chiesa mantenente c'è Razzinga. Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noste, Razzinga, ostia di fuoco, ha la mente di Lutero ma tutto il resto va da sé, non conosce la paura né tra italiane che cos'è, lotta a cane si rialza sempre vincerà. Razzinga. Dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te Razzinga, Razzinga, ha la mente di Lutero ma tutto il resto fa da sé, non conosce la paura di sa italiane che cos'è, se hai bisogno puoi invocarlo con la Bibbia apparirà. Razzinga. Santa, lama diabolica, doppio rosario. Buonasera, buonasera, finalmente una nuova puntata di Banda Armata qui su Fuori Onda Radio, trasmettiamo anche su Radio C Roma e speriamo di trasmettere presto anche su Radio Transizione di Fase, ricordiamo Radio C Roma 105.7 FM. Finalmente torniamo perché siamo stati assenti un po' dalle frequenze virtuali del web, dalle frequenze etere di Radio C Roma, perché il movimento studentesco ha travolto ovviamente il collettivo più occupata, che si è sciolto all'interno del movimento studentesco in un mese di mobilitazione piuttosto intensa, come buona parte dei nostri ascoltatori avranno avuto modo di osservare. Parleremo sicuramente abbondantemente di quello che abbiamo fatto durante il movimento studentesco, ma non sarà solo la protesta studentesca con tutto ciò che ne consegue, l'approvazione del DDL Gelmini, le prospettive del movimento studentesco così come dell'università e dei decreti, dei provvedimenti legislativi di questo governo. Ci sono chiaramente anche altre cose in ballo. In questi giorni non si può non parlare del referendum di Mirafiori, il referendum delle New Co, il referendum di Marchionne, quello che ha spaccato dopo tanto tempo di concertazione, di unità, un'unità fatta di sacrifici dei lavoratori. una nuova rottura fra quello che è il sindacato, ormai l'ultimo sindacato storico rimasto in Italia con delle posizioni non concertative, che è la FIOM, per quanto pieno di contraddizioni, il resto dei sindacati. Un referendum di Mirafiori che ha delle implicazioni amplissime, non riguarda di certo solo il cosiddetto Lingotto, anche se poi il Lingotto non esiste più, ma riguarda tutto quanto l'apparato lavorativo italiano. Parleremo anche di territorio, dal momento che prosegue il lavoro della rete di difesa del territorio franconistico. Ci sono stati degli appuntamenti importanti che sono saliti anche alla cronaca, sono balzati alla cronaca nazionale, come per esempio il blocco della discarica di Pianopoli. E poi chiaramente il tutto è proiettato verso il futuro, verso le nuove proposte, anche le nuove iniziative di mobilitazione, a partire dallo sciopero di categoria chiamato proprio dalla FIOM per il 28 gennaio, che vedrà delle mobilitazioni regionali su cui cercheremo di fare il punto, dal momento che in questi giorni molte assemblee si sono tenute un po' in giro per il territorio, anche nella nostra università. Per cui insomma gli argomenti sul piatto della bilancia sono tanti. Abbiamo sicuramente da recuperare dopo un mese di assenza, dove in buona sostanza l'aula occupata è stata chiusa, dal momento che il movimento studentesco ha occupato l'aula magna, ha occupato per una settimana anche il rettorato, bloccando l'attività amministrativa di questa università. Per cui insomma, prima di avviarci alla grande rispetto a tutti gli argomenti, partiamo con un po' di buona musica come sempre, vediamo un po' il DJ che cosa ci consiglia. Questa sera abbiamo addirittura un vecchio dittatore albanese in console. Vai con Turismo in Quantità, vai Turismo in Quantità. L'aria buona, il sole ci riscalda. La terra brucia, l'erba cresce ai lati della strada. L'aereo a terra, sull'onda che travolge le case abusive. Ma c'è la processione, tutti in fila, nessuno se ne accorge. Ci vuole rispetto, molto rispetto per le tradizioni. Le radici da mangiare per dimenticare. Auto, ricambi, colazioni, bibite e panini. Matrimoni, cresimoni, lampade, gioielli, tagli di capelli. Ci sono giornali, frutta, patate, funghi, pesce fresco. Sale da ballo, curve, parcheggi, bomboli di gas. Turismo in quantità. Turismo in quantità. Turismo in quantità. Turismo in quantità. Turismo in quantità. Sogno di civiltà. Turisti a volontà. Sviluppo ed onestà. Macchine rubate, targhe riciclate. Ristoranti, alberghi aperti, camere confort. I mesi estivi sono una risorsa per la comunità. Mentre è freddo l'inverno il fiume si ingrasserà. Auto, ricambi, colazioni, bibite, panini. Matrimoni, cresimoni, lampade, gioielli, tagli di capelli. Ci sono giornali, frutta, patate, funghi, pesce fresco. Sale da ballo, curve, parcheggi, bomboli di gas. Turismo in quantità. Turismo in quantità. Turismo in quantità. Turismo in quantità. Turismo in quantità. Sogno di civiltà. Turisti a volontà. Sviluppo ed onestà. Sviluppo ed onestà. Turismo in quantità. Sviluppo ed onestà. Onestà, dignità. Autoricambi, colazioni, bibite, panini, matrimoni, cerimonie, cresime, gioielli, tagli di capelli, sale da ballo, curve, parcheggi, bombole di gas. Turismo in quantità, sviluppo e civiltà, turisti a volontà. Thank you. iniziamo? Iniziamo da quello che ci è più vicino, a quello che c'è stato a livello nazionale, in primis negli ultimi due mesi che ci hanno visto pienamente attivi come collettivo e anche come movimento universitario di Cosenza, nella mobilitazione e nelle mobilitazioni che si sono prodotte per contrastare l'ormai schifosamente passato DDL Gelmini. Quello che è stato, che abbiamo vissuto in questi due mesi, è stato ampiamente prodotto sul, diciamo, mainstream, ampiamente rappresentato, ma noi vogliamo dare quelle che sono le nostre letture su momenti caldi come per esempio quello del 14 dicembre e comunque in generale sul movimento nazionale. Quello che si è sicuramente potuto riconoscere in questa nuova ondata di movimenti e di manifestazioni è una maturità diversa del movimento studentesco, che è stato oggi capace, anche se con delle acerbità, si nota ancora che ci sarebbe bisogno di approfondire determinate questioni, comunque è stato capace di generalizzare la questione universitaria, inserendola comunque nella tessitura più ampia di tutta la società italiana. Quello che abbiamo cercato di dire in più salse è che quello che è la situazione del diritto allo studio, quello che è la situazione del sapere, non può essere slegato in nessun modo dal contesto in cui viene calato. Infatti l'attacco all'università, l'abbiamo detto più volte negli ultimi due anni e lo continuiamo a dire, l'abbiamo detto in maniera forte nelle varie piazze che abbiamo determinato soprattutto nel dicembre caldissimo che c'è stato, appunto è una degenerazione strutturale, e questo è uscito fuori chiaramente dall'unione appunto che si è sancita in più tempi e più riprese tra studenti e lavoratori, per esempio con la FIOM il 16, anche se in quel contesto molte questioni molte questioni devono essere approfondite. Quello che è stato un momento molto intenso, di cui parleremo nella prossima ripresa, è il 14 dicembre. Il 14 dicembre è stata una manifestazione che era contro il governo, a cui il movimento studentesco ovviamente ha partecipato e che ha determinato, nel senso che è stata la sintesi appunto di questi ragionamenti e della determinazione siamo stati capaci di produrre in questi due anni di ragionamenti. Io penso e pensiamo che questo è un processo che è iniziato ed è bene che è iniziato e che debba essere continuato nelle discussioni a venire, nelle discussioni a venire. Ecco, su questo movimento le impressioni sono tante e appunto il quadro nazionale è molto variegato. Riguardo a questo, diciamo, le voci sono tante. Vabbè, a parte il fatto che da casa ci dicono che è scappato un abbondantemente, è chiaramente falsissima questa cosa, che sono notizie tendenziose, sicuramente sarà stato qualche magistrato, comunque qualche affiliato alla magistratura, i soliti faziosi della magistratura. Innanzitutto cerchiamo di spiegare che cosa è successo. Il DDL Gelmini è stato approvato di fatto nell'assedio dei palazzi del Parlamento. C'è stata, prima dell'approvazione in Senato, vi è stata una fiducia, quella del 14 dicembre, che è passata alla storia non solo per essere stata vissuta dal Paese in maniera assolutamente drammatica, poi parleremo nello specifico del 14 dicembre, ma è passata alla storia per aver sancito finalmente quella che è un po' la morale della democrazia parlamentare di questo Paese, che di fatto è attaccata al libro paga di qualcuno che può comunque determinare i due o tre voti necessari per ottenere la fiducia, così come è avvenuto proprio il 14 dicembre attraverso il voto favorevole di alcuni parlamentari di opposizione o pseudotale, che all'ultimo momento si sono scoperti berlusconiani o giù di lì. Il DDL, dicevamo, è passato, adesso si apre la strada a nuovi orizzonti. Il fatto che sia passato il disegno di legge non significa che tutte le modifiche previste da questo disegno di legge sono già realtà, dal momento che molte sono ancora approssimative. In questi casi ci sono alcuni provvedimenti esecutivi, il cosiddetto dispositivo, e da questo punto di vista come studenti dobbiamo ancora cercare di radare la nebbia su quello che sarà il percorso che nelle singole università si andrà a determinare. Per esempio, c'è un cambio dello statuto in ballo, per cui il DDL prevede la legge delega, ed è un cambio dello statuto che dovrà quindi passare attraverso gli organi attualmente vigenti di questa università, per esempio. Quindi è un cambio dello statuto che deve passare attraverso il Senato accademico, attraverso il Consiglio di amministrazione, che poi dovrà andare a sostanziare le modifiche strutturali della nostra università. E su questo gli studenti di questa università, gli studenti di tutti gli atenei, faranno una battaglia grossa, una battaglia che da un certo punto di vista può essere leggermente più semplice, in quanto, tra virgolette, la stanza dei bottoni, luogo laddove si decidono le cose, non è il Parlamento, che comunque è a 500 km da qui, a 600, a 300, a 400, a 100, ma è in questo caso, si pensi alla Sala Guarasci, laddove si riuniscono il Senato e il Consiglio di amministrazione, e su cui gli studenti sicuramente dovranno intervenire con forza per cercare di fermare nei limiti del possibile questo tipo di processo devastante per l'università e soprattutto per il nostro ateneo, già che ricordiamo che il DDL prevede l'inserimento di figure esterne con dei criteri assolutamente indefiniti, che lasciano adito a molte falle, comunque a molte interpretazioni faziose di questo tipo di regolamento. La seconda battaglia sarà sui decreti attuativi. E in tutti quei passaggi dove la legge di fatto dà semplicemente delle linee guida e non definisce un dispositivo legislativo, il governo o chi per lui deve prevedere dei decreti attuativi, ovvero che vanno a colmare, a recepire quelle linee guida per renderle di fatto legge. Da questo punto di vista, quindi, l'opposizione a questo governo o i governi successivi che tenteranno di stendere, di approvare dei decreti attuativi su questa riforma, l'opposizione a questo tipo di forze non è finita da parte degli studenti e, come abbiamo sempre detto, da parte di tutto il Paese, in quanto la questione universitaria non è una questione né giovanilistica, non è una questione che riguarda semplicemente gli studenti, è una questione che riguarda tutto quanto il Paese. Non fosse altro perché tutti quanti, in maniera diretta o indiretta, risentiamo dell'esistenza di un'università libera, dell'esistenza di una ricerca libera, oppure della sua mancata esistenza. In buona sostanza, il movimento studentesco continua. È chiaro che non si può pensare di andare sull'autostrada due volte al mese. Ma ciò non significa che la mobilitazione è finita. Come studenti, anche qua all'Università della Calabria, ci stiamo riorganizzando, si sta tentando di mettere su un coordinamento fra le varie realtà vecchie e nuove di questa università. Vabbè, anche perché voglio dire, è anche necessario fare un momento di sintesi di quelli che sono stati i grandi contenuti che sono inseriti, per esempio, nell'assemblea della Lavagna, nel senso qua. Quello che è necessario è che comunque si sta vedendo a livello nazionale da un po' tutte le parti, nel senso, questo processo di riconoscimento reciproco tra tutte le realtà che già lavoravano sul territorio è una cosa che sia a Cosenza e sia dalle altre parti comunque si sta verificando. C'è un coagulo interessante di contenuti più che di forme di lotta, no? sì, lo possiamo anche dire fuori dai denti, ci vuole un momento di sintesi, ci vuole anche un momento di analisi e di autocritica. Sono stati fatti sicuramente degli errori, da parte nostra abbiamo sempre valutato come un errore, anche se mai come collettivamente, perché come collettivo diciamo, ma abbiamo sempre valutato come un errore per esempio l'aver lasciato il rettorato dopo una settimana. Si trattava di un blocco conflittuale, speriamo che il rettore ci dia l'onore di ascoltarci. Si trattava di un blocco che di fatto metteva in difficoltà la nostra università, quindi la classe dirigente della nostra università, con i suoi scempi, con le sue nefandezze, con i suoi 3 mandati, ed era un blocco che doveva essere fatto fino all'esaurimento di tutte le energie, perché era un blocco conflittuale, perché metteva in difficoltà, perché sollevava delle contraddizioni, perché dava un segnale chiarissimo al governo che nella Calabria, laddove il partito di governo muove voti attraverso la criminalità organizzata, attraverso i ricatti sul lavoro delle varie aziende, si pensi a Catanzaro e i call center, attraverso la speculazione di ogni tipo, in questa terra c'era un gruppo di persone che non solo si non chinava la testa, ma andava a bloccare un centro di potere, un centro di produzione economico come l'Università della Calabria. Per cui comunque è vero quello che diceva prima Gustavo, ci sono un momento di sintesi, un momento di analisi per ripartire per una nuova mobilitazione, magari speriamo dal 28 gennaio. Mettiamo un po' di musica. Mettiamo un po' di ottima musica, io la scelgo la prossima. La prossima dopo Turismo in quantità di Peppe Voltarelli, mettiamo gli Opet con la grande gioia del Flavio Stasi Nazionale, abbiamo Bleak. We'll be right back. inutile lamentarsi della lunghezza dei pezzi, purtroppo Hoxha è direttamente dalla sua cabina di regia, non ci permette di intervenire sulla musica, come voi ben sapete, una visione piuttosto autoritaria della gestione della console, per cui il pezzo era di 9 minuti e 15, non abbiamo potuto fare a meno di... Comunque, Gustavo, dicevamo... Dicevamo che adesso tu ovviamente tirerai le somme sul 14 dicembre, no, quello che è importante sancire è che il 14 dicembre, che ne dicano, dall'Olanda non è sceso nessuno, nel senso la cosa significativa è vedere quelle che sono state i risvolti di tutti i fermi che hanno fatto, nel senso non si poteva andare avanti con quei fermi perché là c'erano ragazzi di 16, di 20, di 25 anni che sostanzialmente erano là perché la situazione è diventata ormai insostenibile. Il leitmotiv di quella giornata sostanzialmente non doveva essere i centri sociali, i black bloc eccetera eccetera, ma doveva essere chi ne semina abbiento ricoglie a tempesta, sostanzialmente, nel senso quello che hanno raccolto la giornata del 14 è stata 10, 12, 15 anni di vessazioni che sono state fatte in maniera, cioè negli ultimi 15 anni particolarmente oscena ed esplicita, soprattutto nell'università e soprattutto sulle categorie più deboli, che vanno appunto dai lavoratori agli studenti, i lavoratori che ad oggi sono una classe per l'80%, 90% vessata da condizioni pietose e terribilmente travagliata da precariato insostenibile. Esatto, e infatti proprio la composizione di quella piazza ci può dare comunque un'indicazione piuttosto decisiva nella lettura reale, nella lettura corretta di quello che è successo il 14 dicembre a Roma. È chiaro che leggendo i giornali del 15 si legge, noi abbiamo la rassegna stampa, si legge di Black Bloc, si fa un identikit del perfetto teppista, del perfetto spaccatore di vetrine, si dice che Roma era a ferro a fuoco. Noi sappiamo, abbiamo letto, abbiamo visto dei servizi, abbiamo letto delle cronache, abbiamo avuto modo di sentire anche molte testimonianze di come è andata la piazza del 14, ma dicevo la composizione, chi il 14 sfilava fianco a fianco e chi poi si è trovato a fare le barricate contro le forze dell'ordine, che in quel momento voglio dire difendevano il palazzo che, come abbiamo detto prima, si è mostrato nella sua veste più squallida. Il palazzo difendevano il mercatino dell'usato, nel senso che in quella giornata era terribilmente oscena la scena che si parava davanti a chi si metteva in una televisione, cioè si sapeva che quel deputato era stato comprato per 10 euro, quell'altro per 15 e quell'altro per 20, il mercato del pesce, cioè, e questo è interessante. Esatto, e forse l'ordine che difendevano un mercato, un palazzo del mercato del voto a cui questa grandissima massa di gente voleva arrivare, e per cui si è arrivati a uno scontro esasperato. Chi c'era a sfilare le barricate? Ma c'erano innanzitutto ragazzi dell'università, ragazzi dei territori, ragazzi delle scuole, giovani romani, c'erano veramente ragazzi, qualcuno era persino alla prima manifestazione, lo si vedeva dall'innocenza con cui poi mandavano dei messaggi sia attraverso il corpo che attraverso gli slogan, attraverso i cartelli, le magliette. E poi c'erano i territori che sono paradossalmente emblema del governo di centrodestra degli ultimi sostanzialmente 10-15 anni, del malgoverno di centrodestra, ma anche della linea di continuità del centrosinistra, perché c'erano i comitati terremotati dell'Aquila che erano lì presenti a fianco dei metalmeccanici e a fianco degli studenti, c'erano i comitati vesuviani che protestano contro le discariche, che si trovano a beccarsi botte davanti alle discariche perché non hanno intenzione di far crescere i propri figli in buona sostanza in una montagna di monnezza. Perché sia ben chiaro, nel senso che quello che è successo a Roma semplicemente ha avuto più visibilità mediatica, ma era la sintesi di una tragedia che si sta vivendo a livello diffuso sul tutto il territorio italiano, cioè nel senso le situazioni di Tersigno le ricordiamo di poche settimane prima, nel senso ne abbiamo parlato anche su Banda Armata e questo è significativo, nel senso che quella giornata non poteva che avere quel risalto mediatico per la situazione generale, però è una tragedia che viviamo ogni giorno e dappertutto, nel senso ci sono delle realtà che combattono ogni giorno e anche a quei livelli di conflittualità con uno Stato che non ne vuole di ascoltare le ragioni dei territori, le vere ragioni dei territori. E cosa c'era, chi c'era oltre a questo tipo di commentatori? Beh, c'era il precariato diffuso di tutta la nazione, i precari dei call center, i precari dell'università, i precari in generale che ormai si annidano praticamente in ogni luogo di servizio, in ogni luogo di produzione, in ogni luogo di elaborazione di questo del sistema produttivo italiano. Per cui una cosa chiara, un messaggio chiaro che poi comunque il movimento studentesco, per dire la verità, quasi stranamente secondo me è riuscito a dare poi nei giorni a seguire, che lì non c'erano black bloc, lì non c'era gente venuta da fuori, lì non c'erano alieni, ma ci sono le persone che tutti i giorni soffrono le angherie e le ingiustizie di questo tipo di organizzazione, di questo tipo di sistema produttivo. Nelle più diverse sfaccettature, sui territori, sul luogo di lavoro, sul luogo di studio, sul campo dei diritti civili, c'era insomma tutta quella fetta d'Italia che purtroppo sta subendo, ed è la grande parte della popolazione italiana che purtroppo sta subendo anche gli effetti della crisi. E poi c'è da dire un'altra cosa. Chi insomma ha avuto la possibilità di parlare con la gente romana si è resa conto che, a differenza anche di altre volte, il passante, il negoziante, la signora alla finestra non erano affatto spaventati dalla folla che passava e anche da quegli attimi di inevitabile violenza che ci sono stati. Poiché chi è stato in quel corteo ha visto la gente salutare dalla finestra, chi è stato in quel corteo ha visto i lavoratori sulle impalcature cercare in qualche modo anche simpaticamente di infastidire le forze dell'ordine che cercavano di prendere i primi che capitavano. Parlavi dei fermi, ci sono stati una quarantina di fermi, stiamo parlando di gente presa assolutamente a caso, ragazzini rimasti indietro rispetto a una carica in cui magari si trovavano per caso. Questa è stata l'azione repressiva delle forze dell'ordine, avevano bisogno di numeri da sparare sulle agenzie di stampa a sera, ma che il giorno dopo hanno dovuto rilasciare. È un altro segno importante della consapevolezza e della forza e della collettività di quella piazza, è che non c'erano buoni e cattivi in quella piazza, non c'era chi desiderava arrivare al Parlamento o chi desiderava fare una telefonatina al giornale, tutti quanti volevano arrivare in Parlamento. È il popolo che vuole arrivare al Parlamento e ci sono le forze dell'ordine che loro malgrado ricevono e eseguono l'ordine di non far arrivare il popolo in Parlamento. E tutta quella piazza, anche se poi fisicamente non tutta si è spesa per cercare di arrivarci, era e si è dimostrata solidale con quel tipo di dinamica di piazza. Questa è una cosa che è importante, che non sempre si verifica, ma che testimonia un disagio. Testimone un disagio è il bisogno di manifestare questo disagio, in quanto nonostante la cappa mediatica che insomma in questi giorni si sta dimostrando ancora, fra l'altro poi magari ci ritorneremo dopo, nonostante la cappa mediatica, nonostante il ricatto di una precarietà diffusa, nonostante i tagli su ogni tipo di aspetto dello stato sociale, si pensi alla sanità, nonostante gli scempi territoriali che quindi

Peppone Voltarelli, Italiani Superstar, fantastico pezzo di quest'album, ci piace proprio un sacco. Chiusura sul 14, con tutto quello, cosa volevo dire? Cosa ho voluto dire? Il senso di tutto questo è che il 14 dicembre, che io sia studente o precario o metalmeccanico, gente del Vesuvio, che sia stato a Roma o a Cosenza a occupare l'autostrada o a Torino o a Genova, a Palermo, siamo stati tutti quanti col corpo o con la mente in quella piazza a cercare di arrivare in un Parlamento che non ha nessuna legittimità e nessuna sovranità e a fare le barricate contro chi ce lo impediva. Così come ritengo, facendo una battuta, siamo tutti quanti del reparto montaggio di Mirafiori, dal momento in cui il reparto montaggio, insomma chi sta alla catena, gli operai veri della Fiat, gli operai veri d'Italia, hanno votato no all'accordo della Newco, all'accordo di Marchionne, che adesso andiamo un attimino a capire che cos'è. O no? Siamo tutti quanti del reparto montaggio, Gustavo? Diciamo che eviterei, nel senso che proprio reparto montaggio no, reparto smontaggio già. Vabbè, reparto smontaggio. Allora, apriamo un po' la parentesi Mirafiori. È stata in buona sostanza un passaggio importante per quanto riguarda la politica, il lavoro, l'economia italiana. Partiamo come sempre dal cercare di capire che cosa è successo, per quello che insomma sono le nostre competenze. Marchionne, che è l'amministratore delegato di Fiat, sta in buona sostanza cercando di destrutturare il contratto nazionale del lavoro, che è una garanzia per tutti quanti i lavoratori. Di che cosa stiamo parlando? Gli impiegati pubblici, gli impiegati metalmeccanici, gli impiegati delle varie categorie non fanno un contratto individuale, non vanno col proprio datore di lavoro a trattare le condizioni del proprio contratto da un punto di vista individuale. Questo implicherebbe che io potrei rivolgermi al mio datore di lavoro e ottenere delle condizioni, Gustavo potrebbe ottenerle delle altre, Hoggia, come mi ha giustamente corretto il Comitato Centrale d'Albania, andrebbe a contrattarne delle altre. Questo implicherebbe individualizzazione appunto delle clausole del contratto, questo implicherebbe in buona sostanza ricatto, perché sarebbe una gara, un po' quello che succede nel lavoro nero, un po' quello che succede in tutte quelle ampie fasce di lavoro che purtroppo non sono regolate. Cioè, quindi fammi capire, io che ho gli occhi un poco così turvole, no, eccetera, eccetera, potrei prendere 400 euro e tu che hai gli occhi bellissimi e azzurri ne potresti prendere 2000, cioè qualcosa del genere, diciamo che per esempio questo aprirebbe la porta a differenze fra lavoratori, quindi a meccanismi concorrenziali che comunque purtroppo ci sono, ma che li amplierebbero e aumenterebbero il ricatto, in quanto un singolo lavoratore rispetto al proprio datore di lavoro è sicuramente in una posizione di inferiorità, già che l'uno è bisognoso dell'altro, mentre il datore di lavoro, dal momento che si comporta con un relaziona con con le masse, in buona sostanza, con insomma una buona fetta di popolazione che potenzialmente aspirano a quel posto di lavoro, può benissimo dire no, tu no, perché quell'altro mi lavora con 50 euro in meno, mi lavora con una pausa in meno, mi lavora un'ora in più, un po' quello che vediamo su un altro piano, per esempio con gli immigrati sui campi di agrumi. Perché vanno gli africani? Perché gli africani lavorano per meno soldi e per più ore, è chiaro che lì non c'è niente di regolare e si tratta di molto spesso di immigrati che non hanno il permesso di soggiorno, per quale motivo non si sa, e quindi sono in una posizione di ricatto. Vabbè, non c'è niente di regolare ancora per poco, perché il contratto Marchionne sarà anche per loro prima o poi, no? Cioè, nel senso che anche loro, lui in verità lo fa per poter mettere in regola anche loro. vabbè, diciamo che può essere un'interpretazione, anche se è un po', diciamo, un po' fumosa come cosa. Quindi questo è il contratto nazionale di lavoro. Piuttosto che una trattazione individuale, i contratti si contrattano da un punto di vista collettivo, cioè i metalmeccanici fanno un contratto e i datori di lavoro devono attenersi ad alcune clausole imprescindibili di quel contratto. Gli impiegati pubblici hanno un contratto, non va il singolo impiegato pubblico a trattare col datore di lavoro di turno, con l'amministratore pubblico di turno, c'è un contratto agli impiegati pubblici e così via. Che cosa succede con l'accordo Marchionne? Succede che piuttosto che fare un accordo da un punto di vista nazionale, Marchionne propone un accordo per Mirafiori, un accordo per Pomigliano e ha già dichiarato che propone un altro accordo per altre fabbriche, già che, dice lui, giustamente dal suo punto di vista speculativo, già che non può permettersi di fare, guardate il paradosso, di fare delle condizioni in una fabbrica e delle altre condizioni in un'altra. Se ha proposto un accordo beffa prima a Pomigliano e poi a Mirafiori, è chiaro che deve andare a Melfi a proporre lo stesso accordo beffa. E qui i sindacati si sono spaccati, perché l'ormai, voglio dire, capitolazione subordinata di CISL alla capitolazione subordinata di CISL e UIL, che ormai sono in perfetta linea con Confindustria, se non ancora più a destra, per usare un termine politicista, all'inizio timida FIOM ha tentato di opporsi non firmando quell'accordo, e in Italia la pratica ultimamente dei datori di lavoro, avallata poi anche dai ministri dello sviluppo economico, dei ministri del lavoro e cose del genere, la pratica è che quando un sindacato non accetta un accordo non si va alla mediazione, ma si esclude quel sindacato dal tavolo di concertazione, dal tavolo di contrattazione. Si esclude, è stato fatto un referendum. Nel senso, parliamo anche di questo, no? Quale altra forma più alta di democrazia se non il referendum? Dai. Ed ecco appunto che qui spunta il referendum. La manna dal cielo che casca ormai ripetutamente nelle mani dei padroni è il referendum, cioè... Dal momento che la FIOM non si decide, dal momento che Angeletti e Bonanni non vogliono dire ma non è che posso decidere io l'accordo te lo firmo, ma lo devono dire anche i lavoratori, allora parte con la campagna di referendum, cioè facciamo decidere ai lavoratori. Questa qui è chiaramente proprio la più classica, la più tremenda, la più squallida delle menzogne e dei ricatti. Dal momento che CISL e UIL, non appena si avvia col referendum, e Marchionne attraverso i suoi organi di stampa, che cosa dice? Se non si fa l'accordo non avete il posto di lavoro. Questo è il referendum della democrazia lavorativa italiana, questo è finalmente la sublimazione della volontà dei lavoratori. L'abbiamo visto fino all'ultimo secondo, Marchionne non ha fatto altro che ripetere: se non passa l'accordo io vado via dall'Italia, avallato da Sacconi, avallato da Berlusconi, avallato da Bersani che dice l'accordo è una cosa che bisogna rispettare, avallato non solo dei sindacati confederali CISL e UIL, ma avallata anche di fatto dalla CGIL, non dalla FIOM, dalla CGIL nazionale. A parte il fatto che la CGIL ha attualmente un segretario che viene dalla FIOM, da cui è stata cacciata, per cui non ha assolutamente nessuna simpatia per il sindacato dei metalmeccanici, ma che poi rappresenta comunque la parte più meno radicale della CGIL, che quindi si è affrettata fino all'ultimo secondo a dire: noi non siamo d'accordo, ma se passa il sì noi ci dobbiamo stare. Quello che è successo però è emblematico, probabilmente inaspettato anche per la FIOM e per i sindacati di base. Questo è un altro passaggio importante. Finalmente, per la prima volta penso da 20 anni, i sindacati di base, seppur non siglano nessun tipo di accordo formale né fanno un incontro formale con il sindacato confederale, in questo caso semplicemente con la FIOM, fanno due passaggi: fanno una battaglia per il referendum e convocano lo sciopero di categoria insieme alla FIOM per quanto riguarda il 28 gennaio. È un passaggio storico, perché? Perché i sindacati confederali, da quando in buona sostanza, da quando esistono, molto spesso, più che configurarsi come sindacati che tendono a radicalizzare le posizioni dei lavoratori, molto spesso sono parsi quantomeno quasi sindacati speculari ai confederali, quindi in particolare alla CGIL. Molto spesso abbiamo visto delle posizioni del tipo: se c'è la CGIL in piazza non ci vengo, quando magari anche sarebbe stato necessario, già che ci sono i lavoratori; se c'è quell'altro in piazza non ci vengo. In questo caso c'è un passo, un lancio, uno slancio di maturità, anche perché probabilmente la situazione lo richiede. E la risposta dei lavoratori di Mirafiori, con un 47% generale, che è un dato falsato dal fatto che hanno votato anche gli impiegati, mentre i lavoratori, soprattutto quelli alla catena, hanno votato no, o comunque il divario è stato molto minimo. Il segnale che danno i lavoratori è il segnale di una coscienza che comunque esiste, non tanto per il dato del 47%, ma per il dato di un 47% sotto i ricatti che abbiamo detto prima. È un 47% che non ha detto "io vorrei questo", ha detto "io vorrei questo senza sottostare al tuo ricatto". Per quanto mi riguarda, insomma, Marchione, te ne puoi andare, ma io la mia dignità e il mio futuro non lo vendo a te. E infatti quello che bisogna trarre da questa situazione è appunto che ovviamente un 47-53 obbliga di fatto, penso, Marchionne, se vuole fare davvero qualcosa di quelle fabbriche, a iniziare a riflettere, perché non penso che con queste percentuali si possa lavorare in maniera tranquilla, perché il lavoro deve essere in primis dei lavoratori. Questo è un pezzo che, visto che partiamo con le dediche, lo dedichiamo al nostro grandissimo, al nostro grandissimo, diciamo, fratello Abate, e con questo in coro io direi, come direbbero Cipri e Marescu, dica! E lui capirà. Questo è un pezzo di un gruppo che, voglio dire, è un gruppo, diciamo, internazionale ormai. però siccome non è, lo lascio dire ormai. È un gruppo emergente nel panorama musicale internazionale, diciamo, che ha origini, fra l'altro, di un puoi premere pausa, scusa Yoggia, basta premere pausa, abbiamo avuto un piccolo problema in regia, un problema spastico, diciamo, col pulsantino, e poi lasceremo intervenire anche il contraddittorio eventualmente, se c'è tempo. È un gruppo, insomma, emergente sulla scena internazionale, è una big, come si dice, big brand band, big brass band, banda musicale. È una banda musicale che, insomma, nasce, cresce, prolifera nel crotonese. Si chiamano Statale 107 bis e questo è Pene d'amor, dedicato a fratello Abate. Che ora sia la festa più ridicola, più del no che ormai tardi arriverà, e che ci sia in questa mia festucola finta armonia e risa da barbier, la lingua sia la schiava del vostro signor, pronta a parlare di quel che vuol sentire. Che ora sia la festa più ridicola, a più del no che mai tardi arriverà, e che ci sia in questa mia festucola finta armonia e risa da barbiere, la lingua fanciulla. Per questo tempo legge diventerà. Dai vostri occhi, colpi di fuoco e trampoli e antichi mondi. Ritornerò a vedere. Dai vostri occhi, colpi di fuoco e trampoli e antichi mondi. Ritornerò a vedere. Una voce familiare, questa qui mi sembrava una voce familiare, l'ho sentita già da qualche parte, forse in un vecchio film di Elio Petri, se non vado errato. Mi veniva un parallelismo strano, non mi veniva la parola, un parallelismo strano. Un paraticismo. Un parallelismo, mi veniva un parallelismo strano. Destrutturare il contratto nazionale di lavoro di una categoria sembra quasi come, non lo so, abolire il valore legale del titolo di studio. Mi sa ad occhio, no? A naso mi sa pure a me che comunque mi sa che la direzione è stata data dallo stesso vento. Mi sbaglierò, ma ci deve essere qualcuno che... Se cosa si pensa, Gustavo? Non c'è spontaneismo da questo punto di vista. Sono organizzati, regolari e sanno quello che fanno. Ma non lo so, non ci abbiamo mai pensato noi a questa cosa. In realtà, diciamo che è un pensiero adesso del... Dunque, dicevamo prima... Il 14 dicembre, chi c'era? C'erano i metalmeccanici, va bene. E c'erano gli studenti, fra l'altro una cosa che va detta. Gli studenti sono sempre stati in testa al corteo del 14 dicembre. Si è arrivati nella piazza dove era concentrata la FIUM, ha aspettato che gli studenti passassero e si è accodata. La piazza dove erano concentrati i movimenti territoriali hanno aspettato, sono passati gli studenti e sono accodati. Gli studenti sono stati sempre in testa di questo grande corteo, un po'... simbolicamente, un po' poi sostanzialmente a raffigurare quella che è un'espressione vera, radicale di disagio, di bisogno di cambiamento da parte che è stata espressa dalla componente studentesca e dalla componente giovanile interessante. Parentesi chiusa, no Costa? Chiudiamo la parentesi che la stiamo riaprendo già troppe volte. Chi c'era? I comitati territoriali. E abbiamo parlato di Tessino, non possiamo non parlare di Pianopoli. Il 2 dicembre in Calabria è successa una cosa, secondo me, piuttosto importante, ovvero che la rete di difesa del territorio franconistico, ovvero l'unione, poi nient'altro che l'unione di varie realtà, varie stanze di territorio, vari comitati di lotta, si sono ritrovati davanti alla discarica di Pianopoli e hanno bloccato i camion per l'intera notte. Perché? Innanzitutto perché Pianopoli? Perché bloccare i camion? Che cosa sta succedendo? Ma sei sicuro che non c'era qualche black block? Dico, ma sei sicuro? No? Ehi, diciamo, fonti della questura dicono di sì. Noi abbiamo sentito, insomma, il direttore Veltri e lui ci ha assicurato, insomma, di non aver mandato nessuno. Non so queste due informazioni come insomma, non so, poi io mi fido comunque del direttore, con tutto il rispetto per insomma, per il maestro di cui prima. Comunque, perché parlare di rifiuti nel Natale del 2010 e ai primi giorni del 2011? La Calabria non vive una situazione molto differente dalla Campania. Siamo in emergenza rifiuti da un punto di vista formale, da 14 anni, perché abbiamo un commissariamento all'emergenza dei rifiuti da 14 anni in questa regione. Siamo in emergenza sostanziale perché non si fa altro che aprire nuove discariche illegali, così come è successo per la discarica di Bucita, così come è successo per la discarica di Pianopoli. Chi lo dice che quelle discariche sono illegali? Dice il bolscevico organo del PMLI. No, assolutamente no, lo dice la magistratura, lo dice la procura della Repubblica. E lo dice paradossalmente anche l'ufficio del commissariamento ambientale, perché la discarica di Bucita, sita in Rossano, è stata chiusa con provvedimento dell'ufficio del commissariamento ambientale per questioni igienico-sanitarie. È una discarica esaurita che non può tenere più nulla e non può ricevere più nulla. Punto. La discarica di Pianopoli è stata chiusa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per mancanza di assolvimenti in termini di tutela ambientale e tutela della salute dei cittadini. Punto. Questi qui sono dei dati di fatto. Che cosa succede però? Che l'ufficio del commissariamento ambientale, così come fa con le altre discariche, le riapre perché? Perché c'è l'emergenza. Ecco là dove vanno i 14 anni di commissariamento ambientale in questa regione. Attraverso il commissariamento le forze politiche non fanno altro che andare in deroga ed aggirare qualsiasi tipo di legge, qualsiasi tipo di norma, qualsiasi anche tipo di buonsenso. Quello che è successo, per esempio, prima di Natale, è che non appena è stata chiusa di nuovo dalla magistratura la discarica di Bucita, è stata riaperta la discarica di Pianopoli con delle prescrizioni. Che cosa significa? È stato obbligato il proprietario della discarica di Pianopoli ad assolvere è stato dato un mese di tempo per assolvere alcune adempienze di tipo sanitario ambientale. Si noti che ho detto proprietario. Perché proprietario? Perché il 90% delle discariche che servono il ciclo dei rifiuti in Calabria è in mano a privati. C'è in mano a gente che attraverso i rifiuti fa un pacco di soldi. Qui mi verrebbe di citare il nostro vecchio compagno Filippo Sessito, quando parla del giro d'affari della discarica dei Vrenna a Crotone, e parla di circa 20 milioni di euro l'anno, se non vado errato. Stiamo parlando di una sola discarica, che è molto piccola. Stiamo parlando di un giro di affari enorme. È questa l'emergenza ambientale e l'emergenza di rifiuti in Calabria. È una questione di business ed è una questione di soldi. Per cui la rete di difesa del territorio ha ben pensato: ma se a Natale si consuma il 30% di rifiuti in più, ed è per questo che c'era bisogno di riaprire la discarica di Pianopoli e il commissario all'emergenza ambientale ha spinto affinché si riaprisse, ma sai che secondo me bloccare la discarica di Pianopoli fa un bel casino in quel periodo, no? Lo sta. E infatti diciamo che è un bel casino, l'ha pure fatto, voglio dire, nel senso che siamo stati molto molto molto bravi, molto belli, e questo qua è una cosa che io mi sento di dire. Io ero a casa in quel periodo, me lo rivendico, io non sono tra i black bloc, quindi io con queste cose non c'entro niente, però da casa vi ho visto, era bello, era molto bello, devo dire che... Vi ho visto chi, scusa? Io ero a casa, io ho seguito il tutto da casa, comodamente, mi sono accorto anzi il giorno dopo sui giornali di quello che stava accadendo. In ogni caso, l'idea è questa: andiamo a fare un presidio, un monitoraggio alla discarica di Pianopoli per capire quanta monnezza, quanta schifezza arriva in quella discarica, già chiusa per questioni igienico-sanitarie e illegalmente riaperta nel periodo di Natale. Questa era l'idea. Ci siamo trovati il 2 gennaio davanti a quella discarica, abbiamo fatto un po' di monitoraggio e sono passati dei camion, dopodiché diciamo che qualcuno ha deciso di cominciare a bloccare i camion. Questa è una cosa che noi abbiamo ovviamente documentato, che merita tutto quanto l'appoggio politico. Chiaramente chi ha bloccato effettivamente i camion, questo non si sa, diciamo, non è dato sapere, nel senso, io tra l'altro c'era buio, non si è visto granché in verità. Però i camion sono stati bloccati, c'era al mattino, è arrivata praticamente la fila fino alla strada di Due Mari. Ricordiamo che la discarica di Pianopoli è a pochi, a un chilometro dall'uscita di Vena di Maida, se non vado errato, che è quella dove c'è il famoso centro commerciale Due Mari, e i camion cominciavano ad andare, ad arrivare praticamente fino alla statale. Qual è il messaggio politico, tutto il ciclo dei rifiuti calabresi, per questi quattro, insomma, non lo so, quattro, non so, neanche Black Bloc forse dagli dopo, e quattro scalmanate, è andato completamente nel panico. Tant'è che alle 8 non si presenta il NOE, cioè il dipartimento, il nucleo dei carabinieri che era stato richiesto per verificare le condizioni igieniche e sanitarie e ambientali della discarica, ma si presenta il vicequestore di Catanzaro, se non vado errato, insieme a una bella squadretta di reparto celere, la famosa celere di cui poi... Vabbè, ma scusa, no, a Napoli militare, perché c'era munnezza, a Pianopoli a celere, voglio dire. Sì, la celere, più che di preoccuparsi delle questioni igienico-sanitarie della discarica, si preoccupava delle questioni igienico-sanitarie dei manifestanti, diciamo. Era preoccupato per l'igiene dei manifestanti e si è presentata lì per dare un segnale anche di vicinanza politica dello Stato a quella gente che difendeva le proprie case e che le difendeva con forza e con furore. C'era gente che veniva da Reggio Calabria dove ci sono delle discariche, c'era gente che veniva da Gioia Tauro dove c'è l'inceneritore, gente di Rossano dove c'è la discarica di Bucita, gente di Castrolibro dove c'è quel bel progettino della discarica di Sua Maestà Orlandino Greco, c'era gente insomma di tutta la Calabria, come? Gente di Petilia dove c'è la discarica, dove c'è un altro progetto di discarica che poi un copia e incolla di un'altra discarica, si sono anche dimenticati di cambiare le città perché si fa così. Tu hai un terreno, a proposito, ai nostri ascoltatori, se avete un terreno, lasciate stare il piano regolatore, quei giochetti che si fanno di solito, lo rendete edilizio, poi venite ad doppio. Lasciate stare, facciteci una discarica, scaricate un modello da internet, cambiate il nome, la contrada, la cosa, sono un sacco di soldi, voglio, ma proprio assai. Quindi questo era un piccolo messaggio pubblicitario. Crotone, non potevano mancare gli amici crotonesi che, diciamo, più che ormai non distinguono una casa da una discarica. Per cui, con tutto il rispetto e l'amore, per la città di Crotone. Non ho confermo, io sono da quelle parti, effettivamente, io ogni tanto perdo la via e mi trovo a dormire su una casa che munnezzi, ma nel senso, capita. E quindi, insomma, questa gente si è trovata lì a lanciare comunque, tornando un momento di serietà, a lanciare un messaggio chiaro. La fine, la richiesta, la pretesa della fine del commissariamento, del ridicolo e del bugiardo commissariamento all'emergenza rifiuti in Calabria, che oggi ha una veste ancora maggiore, una veste ancora superiore, perché oggi il commissario non è una figura tecnica come spesso ci si nasconde, no, questa è un'occasione, è una figura politica, perché il presidente della regione Scopelliti è il subcommissario all'emergenza rifiuti, che è una figura politica perché è l'assessore all'ambiente Pugliano. Per cui la fine del commissariamento è stato il messaggio ed è stata la prima di tante iniziative che la Rete Difesa del Territorio farà sul tema dei rifiuti, perché è un tema, non è stato un tema scelto, è un tema dominante del panorama meridionale. Facevo una riflessione che, cioè, ma a parte, nel senso, la cosa bella è questa, nel senso, in generale il ciclo dei rifiuti dovrebbe essere gestito dalla giunta regionale, nel senso che ci deve essere l'assessore all'ambiente che fa i suoi progettini e poi ci deve essere tutta la giunta che decide. Quando tu commissari, no, cioè, quando tu fai il commissariamento, la questione qual è? Ok, la giunta non è capace di gestire questa cosa, quindi chiama un commissario esterno che fa il lavoro, eccetera, eccetera. Questa cosa ti permette ovviamente di fare cose d'emergenza, eccetera. Adesso la situazione è interessante perché loro, cioè, potrebbero fare il loro lavoro da non commissari, nel senso, cioè, loro lo devono fare per legge, cioè, fare un piano dei rifiuti, eccetera, eccetera. No, hanno fatto il commissariamento e adesso sono diventati loro i commissari. Cioè, questa cosa è una cosa che è un giro, un'istituzionalizzazione della non legge, che È un processo che già in altri casi, se non mi sbaglio, abbiamo avuto modo di osservare, nel senso si sta proprio cambiando il modello legislativo, ma non ricordo quando, non ricordo dove, ma pian piano sta succedendo questa cosa molto interessante. Sì, c'è a parte il fatto che Ceaușescu qui dalla cabina di regia, sono già 3 minuti che è in fibrillazione. Stai tranquillo che l'argomento è interessante. I nostri ascoltatori sicuramente insomma ci tengono a sentire l'ultima battuta. Sì, c'è un precedente che in questo momento non ricordo. C'era un'altra battuta che grazie a Ceaușescu non ricordo più. Grazie, complimenti. Vabbè, passiamo al pezzo. Sei contenta? Adesso sei contenta? Vuoi il contraddittorio? Per caso vuoi il contraddittorio? Non vuole. Allora, questo pezzo lo dedichiamo a una persona che in questo momento non è qui, che però con tutto il rispetto per Ceaușescu è il nostro tecnico di fiducia, diciamo, il nostro tecnico storico, il grafico del collettivo, il tecnico della radio, Leroy Lounge, Peppe. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. No way. prima sui rifiuti in generale, sulle RDT, quanto è bello il liberismo, davvero lo dico, perché ti permette di fare degli incroci, di incontrare della gente fantastica, meravigliosa, a volte dalla tua parte della barricata, a volte dall'altra, e di tracciare un attimino proprio la struttura di quello che si muove, per esempio, dietro i rifiuti. Io pensavo, per esempio, l'altro giorno, noi come RDT, insomma, anche oggi c'è stata un'iniziativa sull'acqua, per esempio, no? L'acqua in Calabria, l'acqua è gestita dalla Sorical, che è un'azienda metà pubblica, metà privata, che la parte privata è rappresentata dalla Veolia, multinazionale francese, quindi acqua, che poi gestisce l'inceneritore di Gioia Tauro, quindi rifiuti. Poi penso, per esempio, agli inceneritori della Romagna, che sono gestiti da Hera. No, dici, cosa c'entra Hera? Hera fa inceneritori e centrali a carbone. Ed Hera, in realtà, è l'azienda che sta dietro la SEI, Saline Energia Ionica, per fare la centrale a carbone a saline ioniche. Hai visto quanto è libero? Cioè, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno, se tu vai girando, che le 4 o 5 sono che battono in un baleno, tutto il resto rupiamo e basta. Cioè, penso che è fantastico, è meraviglioso. Questo in Italia, perché poi Veolia fa i rifiuti in Germania, Hera fa centrale a carbone in Polonia. Poi fanno i rifiuti, poi ogni tanto si incontrano, poi insomma, è il bello del liberismo, è il bello del liberismo. Allora, comunque, quindi abbiamo bloccato, abbiamo lapsus freudiano, e è stata bloccata la discarica di Pianopoli, il giorno dopo telegiornali, giornali e compagnia bella, si è andati anche al comune di Pianopoli a consegnare un'importante libera. Al comune di Pianopoli, una delibera che è stata regolarmente protocollata, e il numero di protocollo è, ce lo ricordiamo il numero di protocollo, così da ricordare agli amici di Pianopoli nel caso abbiano bisogno, vabbè, lo ricordiamo alla prossima puntata. Comunque, questa ordinanza è il nome del popolo calabrese avvelenato, inquinato, un'ordinanza di sequestro della discarica di Pianopoli, che speriamo al più presto il comune di Pianopoli, insomma, eseguirà attraverso i propri organi democratici. Come noi ben sappiamo, il comune di Pianopoli è uno dei comuni che fa della democrazia reale, partecipata, diffusa, collettiva, una dei baluardi, insomma, della propria amministrazione. Si pensi che per una ventina d'anni ha governato un sindaco, adesso c'è il figlio di quel sindaco. Sono liberismo, liberismo, sì, perché se una famiglia, una razza, come si suol dire dalle nostre parole, dice, a quale razza appartiene, si dice dalle mie parole, non è che si dice a che famiglia appartiene, a quale razza appartiene. Se una razza si dimostra capace di gestire, insomma, si dimostra meritevole e con delle comprovate capacità gestionali, diciamo, ecco, con delle comprovate capacità gestionali, merita di stare a quel posto lì. Anche bisogna dire che anche la genetica evoluzionistica si lega perfettamente a questo tipo di cose. Cioè, non ho mai sentito parlare del gene del sindaco, per esempio. Cioè, è una cosa genetica, uno che è il gene del sindaco può fare il gene e poi con il crossing over, capito? Con la meiosi, mitosi, che cose strane, si produce il genere sindaco, e se il figlio ha un 25% di possibilità di essere sindaco a sua volta, è una questione così, magari, capito, se incappa nel restante 75% può diventare assessore o magari una cosa, però, capito, ha 25% di possibilità di essere sindaco. È vero, è vero. E certo, io non capisco di genetica, cose del genere, però il senso è chiaro e si era intuito anche Dicevamo, non è l'unica iniziativa che la rete di difesa del territorio fa e farà, farà sul tema dei rifiuti e non solo. Partirà a breve una vera e propria campagna sulla questione dei rifiuti, uno di denuncia nei confronti, come già detto, del ridicolo commissariamento ambientale che dura da 14 anni, già se si pensa emergenza ambientale 14 anni c'è un problema, nel senso, o in emergenza su 14 anni, insomma, mettetevi d'accordo. Comunque, a parte questo, e poi di proposta di un ciclo di rifiuti possibile, reale. Non stiamo parlando delle solite, io quando sento parlare quella gente, tipo anche oggi all'iniziativa dell'acqua, noi dobbiamo immaginarci un percorso. No, noi non dobbiamo immaginarci un percorso in questo caso. Noi il percorso ce l'abbiamo, ed è il percorso di rifiuti zero. È assolutamente reale, un ciclo di rifiuti è già sperimentato, un ciclo di rifiuti che ricicla e riutilizza circa il 90% dei materiali di scarto. Basta semplicemente, piuttosto che fare discariche private, fare degli impianti di selezione, fare degli impianti di riciclo, di riutilizzo, fare la raccolta differenziata, magari quella porta a porta, magari cercando di dare anche opportunità di lavoro a ragazzi dei vari paesi. Insomma, si aprono tantissimi scenari. Dopodiché non solo risultano inutile buona parte delle discariche private che abbiamo sparse sul territorio e che avvelenano il territorio e che sistematicamente vengono chiuse e riaperte dall'ufficio del commissario ambientale oppure dalla magistratura, ma risulta anche assolutamente inutile la pratica dell'incenerimento, che ad oggi viene data come l'unica soluzione plausibile, e oggi è una roulette russa capire dove sarà piazzato il secondo inceneritore di questa regione. Inceneritori in questa regione non ce ne dovranno essere più, uno basta e avanza, ed è già troppo per il tessuto produttivo di questa regione, che non ha industrie, che non ha grandi apparati produttivi, che ha semplicemente una produzione di rifiuti domestica, per cui un inceneritore è già troppo per questa regione. Dovremmo anche pensare di ridurlo. Volevi dire? No, c'è anche un'altra roulette russa, capire quale sarà la prossima razza animale che sarà investita del ruolo della diffusione di diossine, ecco. Perché a Sprazia, a Macchia di Leopardo, ogni tanto esce la notizia: ehi, le galline dal Giappone hanno la diossina, le galline da Roma hanno la diossina, i gardini. Quindi è anche una cosa interessante. È inevitabile, nel momento in cui si utilizza il territorio come una fossa dove mettere roba che poi avvelena, non si riutilizza, non si ricicla, non si fa nulla. Per cui si farà una vera e propria campagna che prevederà anche dei percorsi di mobilitazione, perché chiaramente i percorsi sulle discariche, che sia Bucita, Pianopoli, Alli, Crotone, Gioia Tauro, non sono finiti, vedremo un po'. Probabilmente ci sarà una plenaria della rete di difesa del territorio nel mese di febbraio. Ancora non c'è niente di ufficiale, c'è bisogno di elaborare un po' di cose, di contattarsi fra vari comitati, realtà diverse, di organizzarsi, insomma. Per cui questa è la prospettiva. Oltre ai rifiuti, comunque c'è da parlare di acqua, perché come abbiamo visto due dei tre referendum sono stati giudicati ammissibili dalla Corte Costituzionale, se non vado errato alla Corte Costituzionale. E per cui non c'è che da fissare la data per il referendum che tenteranno di salvare l'acqua pubblica e ripubblicizzarla in parte, anche se poi la mancata ammissibilità del secondo quesito darà qualche problema, ma ci sono sicuramente i giuristi del Forum Nazionale dell'Acqua che sapranno cosa fare rispetto a questo, sapranno meglio di noi, lo hanno detto oggi, lo ridiranno in giro per l'Italia, si riorganizzeranno dei comitati, insomma, referendari rispetto a questa cosa qui. Inoltre, come rete di difesa del territorio, ci saranno anche da organizzare delle iniziative sulle infrastrutture, iniziative sul nucleare che si intrecciava a quel discorso prima che si faceva sull'energia. Ci sono molte cose in ballo, purtroppo. Non perché lo volessimo, ma perché semplicemente l'attacco ormai, con la scusa della crisi, con l'emergenza costante, con l'emergenza, cioè l'emergenza energetica, l'emergenza rifiuti, l'emergenza sicurezza, insomma, dal momento che sono ormai anni e anni di emergenza, l'attacco è multiplo, la difesa e la riproposizione di un modello diverso a questo, com'è che hai detto che si chiamava, Gustavo? lì, se non vado errato, perché su termini complicati, liberismo, tutto libero. Ecco, un modello un po' più ingessato, diciamo, noi tutto questo libero, diciamo, soprattutto quando i liberi sono tre e tutto il resto, diciamo, sono un po' allora ingessiamoci tutti, se proprio da me ingessare, no? E questa qui, insomma, ci sono un po' di cose da fare. Che facciamo? Lanciamo l'ultimo pezzo prima che qua Mao Zedong ci tagli le gambe, ci rinchiuda in qualche sgabuzzino a cucire vestiti? Ci sei? Vuoi il contraddittorio per caso? Allora, giusto per provare che io non sono né Mao Zedong né Hoxha. È scaduto il tempo. Andiamo con la musica. Il contraddittorio c'è stato, lo vedete tutti che c'è stato. Poi lo facciamo magari a microfoni spenti. Se vuoi continuare, noi ti sentiamo. Poi vai. Basta così. E quale canzone volete? Claudio Lolli e il patto delle nuvole pesanti. Il patto di Novoli è il polo di Firenze, sapete, per chi non l'avesse. Il patto di Novoli. Quando vediamo passare un gobbo, un 13 o un ubriaco, quando non vogliamo incrinare il meraviglioso equilibrio di un'obesità senza fine, di una felicità senza peso, è vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che ma preferiamo morire, ma piuttosto di abbassare la faccia, è vero che cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare il nostro inverno in estate, è vero che i poeti ci fanno paura, ma perché poi ti accarezzano non troppo le gobbe, amano l'odore delle armi, odiano la fine della giornata. È perché poi ti aprono sempre la loro finestra anche se noi diciamo che una finestra sbagliata. Che non ci capiamo e non parliamo mai in due la stessa lingua, e abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero, che abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada ci sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo nel sangue dei nostri padri, odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici, ma io ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra, e ho visto anche degli zingari felici in piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Siamo giunti al termine di questa puntata e facciamo un breve riassunto di quelli che sono stati i temi trattati oggi. Abbiamo parlato del referendum che c'è stato a Mirafiori, la situazione in cui sono messi gli italiani in primis, da lavoratori precari, operai, metalmeccanici, studenti, eccetera, eccetera, da questo sistema che sempre più violentemente volge al collasso e al declino. Noi saremo sempre qua a sottolineare questa cosa. Abbiamo parlato del movimento 2010 e di quello che sarà il suo sviluppo nell'anno a seguire, quello che c'è stato a Cosenza, quello che si sta facendo e che si farà. Abbiamo parlato, come sempre, delle questioni ambientali, della rete in difesa del territorio, di quelle che sono le sue iniziative, di quelle che sono le prospettive, le ampie prospettive che questo coordinamento di realtà territoriali ha appunto nella diffusione di un concetto altro di consumo, di produzione e di anche di mobilità, eccetera, insomma un modello sostanzialmente diverso che si contrappone a questo. Abbiamo parlato per grandi linee di quella che sarà la manifestazione chiamata il 28 dalla FIOM, a cui aderiscono anche i sindacati di base. Questo è una parte di tutti gli argomenti di cui si poteva trattare, visto i due mesi di assenza, ma siamo tornati, ci rivedremo la settimana prossima con aggiornamenti su quelle che saranno le evoluzioni di tutte queste questioni che sono in ballo, su quello che saranno le evoluzioni sull'acqua, sulle questioni territoriali, sul movimento, e anche arrivando anche ad una definizione più stretta di quella che sarà la manifestazione del 28 e altre cose. Salutiamo tutti gli ascoltatori sul web, amici, compagni, colleghi, collegati e non, salutiamo la stampa, salutiamo gli abbati e salutiamo anche gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in differita su Radio Ciroma e ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Un saluto lo lascio fare anche a Flavio. Ciao da Gustavo, vi lascio con Flavio. Sì, devo fare un saluto speciale, un saluto sentito a un mio amico, un nostro amico ormai da tanto tempo, da quasi 12 anni ormai. Questo amico si chiama Giovanni ed è un amico che ha subito tanto in questo periodo. Ha subito tanto perché il suo salotto personale per un mese è stato occupato da nomadi, da clandestini, da sciatti, da zingari, a proposito del pezzo di Lolli, con più di 50, 20, 10, 35, 40, 12, 2, 4 mila euro di danni. Ha subito attacchi sulla stampa in questi ultimi giorni, perché poi si è permesso di far intervenire i reparti antisommossa, la questura, l'ufficio politico davanti al suo salotto per evitare che fosse di nuovo danneggiato così. Sono anni che questa persona subisce degli insulti ripetuti, insomma addirittura era stato paragonato un giorno a Ahmadinejad o ad Ahmadinejad o ad Ahmadinejad, in base a come si pronuncia, quando lui chiaramente, voglio dire, non è Ahmadinejad e casa sua non è l'Iran. Insomma, l'unico problema è che questa casa sua una volta era l'università pubblica, ma questo, voglio dire, non basta per giustificare tutto quello che ha subito. Per cui rivolgo un saluto speciale, anche perché so che insomma lui segue un po' tutto questo. Mi ricordo una volta anche a Cosenza seguiva questo tipo di... è molto vicino alle nostre posizioni, per cui gli auguro un felice feste natalizie, sperando che l'anno nuovo sia più felice di quello appena trascorso. Vai con la sigla, Ceaușescu. Razzinga! Razzinga! Trema il regno delle tenebre del male, dalla fortezza di San Pietro arriva coi pugni teologici. Razzinga, Razzinga, tuona, si scaglia dal sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita la chiesa, ma te ne dice. Razzinga, Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, ha la mente di Lutero ma tutto il resto va da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è, lotta cade, si rialza, sempre vincerà.